Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Quando arrivarono in cima, ancora nell'ombra fonda dei pini, un uomo con un moschetto sbucò di dietro un albero. «Fermi!» disse. E poi, «Hola, Pilar! Chi è costui?» «Un inglese», disse Pilar, «ma ha un nome di battesimo, Roberto». Che salita fottuta abbiamo dovuto fare fin quassù. Salut, camarada, stai bene? Sì, disse Robert Jordan. E tu? Grazie anch'io, replicò l'uomo col moschetto. Era molto giovane, mingherlino, magro, con un naso aquilino, gli zigomi alti e gli occhi grigi. Non portava cappello, aveva i capelli neri e incolti, e la sua stretta di mano era forte e cordiale. Anche i suoi occhi erano cordiali. Ciao, Maria! Disse alla ragazza. Ti sei stancata? Che va, Joaquin, disse la ragazza. È più il tempo che siamo stati a sedere e a chiacchierare che non il tempo che abbiamo camminato. Tu sei il dinamitardo? Chiese Joaquin. Ci hanno parlato di te. Abbiamo passato la notte da Pablo, disse Robert Jordan. Sì, sono un dinamitardo. Siamo contenti di conoscerti. E per un treno? C'eri anche tu quel giorno dell'ultimo treno? Chiese sorridendo Robert Jordan. «Se c'ero», disse Hawking, «è lì che ci si è appiccicata questa», e sorrise a Maria. «Ora ti sei fatta carina», disse a Maria. «Ti hanno detto quanto sei carina?» «Zitto, Hawking, e grazie tante», disse Maria. «Tu saresti carino se ti facessi tagliare i capelli». «E ti ho portata io», disse Hawking alla ragazza. «Ti ho portata sulle mie spalle». «Come tanti altri», disse Pilar con la sua voce profonda. «Chi non l'ha portata? Dov'è il vecchio? Al campo? Ieri sera dove è stato? A Segovia. Ha portato notizie?» «Sì», disse Joaquin. «Ci sono notizie. Buone o cattive?» «Cattive, credo». «Avete visto gli aeroplani?» «Sì», disse Joaquin e scosse la testa. «Non mi parlate di aeroplani. Compagno dinamitardo, che razza di aeroplani erano?» «Bombardieri Heinkel 3, Heinkel e caccia Fiat», gli disse Robert Jordan. «I grandi con le ali basse che tipo erano? Heinkel 3. Sono orrendi comunque si chiamino», disse Joaquin. «Ma non voglio trattenervi, vi accompagno dal comandante. Io sono nato a Valladolid. La città è bella, ma la buona gente, la gente per bene di laggiù, ha sofferto molto in questa guerra. Diventò grave. Là hanno fucilato mio padre e mia madre e mio cognato ed ora anche mia sorella. Barbari», disse Robert Jordan. Quante volte aveva sentito quella storia, quante volte gliel'avevano raccontata con fatica. Gli occhi dei narratori si riempivano di lacrime e la loro voce diventava rauca perché era difficile dire «mio padre, mia madre, mio fratello e mia sorella». Robert Jordan non sapeva più quante volte aveva udito parlare così dei loro morti. Ne parlavano sempre, come quel ragazzo. Improvvisamente, quando capitava nel discorso il nome della loro città, e ogni volta uno diceva «barbari». Si apprendeva che il padre era morto in un cortile, o contro il muro, o in un campo, oppure in un frutteto, oppure di notte, alla luce dei fanali di un camion, sul ciglio di una strada qualunque. Si erano visti brillare i fanali e si erano uditi i colpi. Poi, scesi sulla strada, si erano trovati i cadaveri. Non si era visto fucilare la madre o la sorella e il fratello. Si erano solo uditi i colpi e si erano visti i cadaveri. Thank you. Senti, Inglés, lo sai che cosa dirai al sordo? Disse Pilar. Sì, perché lui non chiacchiera quanto me e te e questo branco di sentimentaloni fracidi. Ah, eccolo! Hola, Santiago! Che tal? L'uomo al quale si rivolgeva Pilar era piccolo e tozzo, con una faccia abbronzata, gli zigomi larghi, aveva i capelli grigi, gli occhi giallo-bruni, molto discosti, un naso dall'attaccatura stretta, aquilino come quello di un indiano, il labbro superiore pendente e una bocca larga e sottile. Era rasato di fresco. Venne loro incontro dall'ingresso della caverna con le sue gambe arcuate e l'andatura rullante tipica dei guardiani di buoi, intonata ai suoi stivali e ai calzoni. Sebbene la giornata fosse calda, l'uomo portava una corta giacca di cuoio foderata di lana di pecora e chiusa fino al collo. Tese a Pilar una grossa mano bruna. «Hola, mujer!» disse. «Hola!» disse a Robert Jordan e gli strinse la mano e lo fissò bene in faccia. Robert Jordan notò che i suoi occhi erano gialli, come quelli di un gatto, e piatti, come quelli di un rettile. «Guapa!» disse a Maria l'uomo, battendole sulla spalla. «Mangiato?» chiese a Pilar. Questa crollò il capo. «Allora mangia!» disse l'uomo guardando Robert Jordan. «Bere?» chiese facendo il gesto di mescere col pollice rovesciato. «Sì, grazie!» «Bene!» disse il sordo. «Whisky?» «Tu hai del whisky!» E il sordo annuì. «Inglese?» chiese. «Non russo?» «Americano. Qui pochi americani», disse l'uomo. «Ora di più. Meno male. Nord o sud?» «Nord. Tutt'uno con gli ingleses. Quando mandi in aria ponte?» «Tu sai la faccenda del ponte?» E il sordo annuì. «Dopo domani mattina». «Pablo?» domandò a Pilar. Pilar scosse il capo e il sordo rise. «Va via!» disse a Maria seguitando a ridere. «Torna!» E guardò un grosso orologio da tasca attaccato con una striscia di pelle a una tasca interna della giacca. «Fra mezz'ora!» Invitò con un gesto di mano Pilar e Robert Jordan a sedersi su un tronco segato che serviva da panca. Poi, guardando Joaquin, accennò col pollice al sentiero per cui erano venuti. «Io accompagno giù Joaquin», disse Maria, «e poi ritorno». «Dove lo prendi il whisky?» «Che?» Non aveva sentito. «Devi gridare», disse Pilar, «nell'altro orecchio». E il sordo accennò ridendo al suo orecchio sano. «Dove lo prendi quel whisky?» ripeté gridando Robert Jordan. «Lo faccio», disse il sordo. Robert Jordan, che aveva già portato il bicchiere alla bocca, si fermò di colpo. «Ma no!» disse il sordo battendogli sulla spalla. «Scherzo! Viene dalla granja! Udito ieri sera venire dinamitardo inglese, bene, felicissimo, procurato whisky per te, contento?» «Molto!» disse Robert Jordan. «È buonissimo whisky!» «Contento?» disse ridendo il sordo. «Te l'avrei portato stasera con notizie». «Che notizie?» «Molti movimenti di truppa». «Dove?» «Segovia. Aeroplani visti?» «Sì». «Male, eh?» «Male. Movimenti di truppe?» «Molti. Tra Villa Castín e Segovia, sulla strada di Valladolid. Molti fra Villa Castín e San Rafael. Molti, molti. Che cosa pensi?» «Perché non far saltare ponte stanotte?» «Ordini». «Da chi?» «Comando generale». «L'ora dello scoppio è importante?» domandò Pilar. «Di estrema importanza. Ma intanto, se mandano su truppe, manderò Anselmo al comando con un rapporto su tutti i movimenti e le concentrazioni di truppe. Anselmo sta sorvegliando la strada». «Hai qualcuno sulla strada?» domandò il sordo. «Sì», disse Jordan. «Anch'io. Perché non far saltare ponte adesso?» «Ho i miei ordini». «Non mi va», disse il sordo. «Questo non mi va». «Nemmeno a me», disse Robert Jordan. E il sordo scosse il capo e inghiottì un sorso di whisky. «E da me che vuoi?» «Quanti uomini hai?» 8. «Beh, per tagliare i fili telefonici, attaccare il posto alla cantoniera e poi buttarsi sul ponte». «E Pablo?» «Taglierà i fili più in basso, penserà alla sentinella della segheria e poi si butterà anche lui sul ponte». «E per la ritirata?» domandò Pilar. «Siamo in 7 uomini, 2 donne e 5 cavalli. E voi?» gridò nell'orecchio di El Sordo. 8 uomini e 4 cavalli. Faltan cavallos, disse egli. Mancano cavalli. 17 persone e 9 cavalli, disse Pilar. El Sordo taceva. Non c'è modo di procurarsi altri cavalli? Domandò Robert Jordan, piegandosi verso l'orecchio sano di El Sordo. Ne ho 4, mostrò 4 dita. E tu ne vuoi 8 per domani? Sì, disse Robert Jordan. Ora che ve ne andate, non avete più bisogno di usare tante cautele qui. Non potreste fare una spedizione in qualche posto a rubarmi 8 cavalli? Forse, disse El Sordo. Forse nessuno, forse di più. «Altri 20 uomini mi farebbero comodo», disse Robert Jordan. «Buoni non esistono. Ne vuoi di poco fidati? No? Quanti ne hai buoni? 4. Anselmo mi ha detto che ce n'è più di 100 su questi monti. Buoni a niente. E la gente di Elias?» gridò El Sordo. Questi scosse la testa. «Buoni a niente. Bevi», disse Robert Jordan. «Io porto la mia gente e altri 4. Fa 12. Stasera decideremo tutto». Ho 60 stanghe di dinamite, le vuoi? Che percentuale? Non lo so, dinamite comune. Te la porto? Ci faremo saltare il ponte piccolo, su, disse Robert Jordan. Benissimo, stasera vieni giù da noi e porta la roba, intesi? Non ho l'ordine di far saltare il ponte piccolo, ma mi sembra necessario. Verrò stasera e poi andrò a cercare i cavalli. Ah, c'è qualche probabilità di prenderne. Forse. Ora mangiare. «E dove ce ne andremo quando sarà tutto finito?» gridò Pilar all'orecchio di El Sordo. «Ci sono molti posti», disse El Sordo, «molti posti. Conosci i Gredos? C'è troppa gente lì. Appena potranno, i fascisti ripuliranno tutti quei posti. Sì, ma è una regione vasta e molto selvaggia. Sarà molto difficile arrivarci», disse Pilar. «Tutto è difficile», disse El Sordo. «Possiamo arrivare nei Gredos come in qualunque altro posto. Viaggeremo la notte». Qui è già molto pericoloso, è un miracolo che abbiamo potuto rimanerci tanto. I Gredos sono meno pericolosi di questa regione. Sai dove vorrei andare? Disse Pilar. Dove? Nella Paramera, non è il caso. No, disse Pilar. Non nella Sierra de Paramera, vorrei andare nella Repubblica. Non è impossibile. La tua gente ci verrebbe? Sì, se glielo ordinassi. Ah, per i miei, disse Pilar, non posso dirti niente, Pablo non verrà, per quanto laggiù si sentirebbe certo più al sicuro. È troppo vecchio per arruolarsi. Lo zingaro non vorrà venire, degli altri non so proprio niente. Non pensano al pericolo, disse il sordo, perché per tanto tempo qui non è successo niente. Ci penseranno, disse Robert Jordan, ora che hanno visto gli aeroplani. Ma secondo me i Gredos potrebbero essere un'ottima base di operazione. Che? Disse il sordo guardandolo coi suoi occhi piatti. Nel tono della sua domanda non c'era cordialità. Di lì sarà molto più facile far delle scorrerie, disse Robert Jordan. Ah sì? Disse il sordo. Tu conosci i Gredos? Sì. Di lì, per esempio, potreste operare contro la linea principale della ferrovia. Potreste interromperla continuamente, come facciamo noi più a sud, nell'Estremadura. Sarebbe meglio lavorare lì che tornare nella Repubblica, disse Robert Jordan. Lì sareste più utili. Ho commesso un errore, pensò Robert Jordan. Ho detto a degli spagnoli che noi sappiamo fare qualche cosa meglio di loro, mentre la regola è di non parlare mai delle proprie imprese e della propria abilità. Invece di adularli, ho detto loro quello che secondo me dovrebbero fare, ed ora sono furibondi. Beh, o si calmeranno o no. Nei Gredos sarebbero senza dubbio molto più utili che qui. «Sentimi, Inglese», disse Pilar, «come stanno i tuoi nervi?» «Benissimo, perché sai, l'ultimo dinamitardo che ci mandarono era sì un tecnico straordinario, ma molto nervoso». «Beh, ne abbiamo qualcuno nervoso, certo», disse Robert Jordan. «Io non credo che fosse un vigliacco, perché si comportò molto bene», seguitò Pilar, «ma parlava in un modo molto sconclusionato e strano», seguitò alzando la voce. «Non è vero, Santiago, che l'altro dinamitardo, quello del treno, era un poco strano?» «Algo raro», annuì il sordo, e i suoi occhi esaminavano la faccia di Robert Jordan in un modo che gli fece pensare all'imboccatura rotonda del tubo di un aspirapolvere. «Sì, algo raro, però bueno». «Muriò», disse Robert Jordan all'orecchio di El Sordo. «È morto!» «Com'è andata?» chiese il sordo. Il suo sguardo scese dagli occhi alle labbra di Robert Jordan. «Gli sparai io», disse Robert Jordan. «Era ferito troppo gravemente per poter viaggiare, allora gli sparai». «Come fu?» domandò il sordo. «Fu per un treno?» «Sì», disse Robert Jordan. «Mentre ci ritiravamo, il treno era saltato. Tornando indietro, al buio, incontrammo una pattuglia di fascisti e, mentre correvamo, lui si prese un colpo nella schiena. La palla ferì solo la scapola e lui continuò a camminare per un pezzo, ma poi la ferita gli impedì di andare avanti. E siccome non voleva rimanere indietro, gli sparai». Aveva appena finito che Pilar cominciò a vomitare un flutto di invettive oscene che piovevano sopra e intorno a Robert Jordan, come l'acqua bollente bianca sgorgante di un geyser esploso all'improvviso. E il sordo scuoteva la testa, guardando Robert Jordan e ridendo di contentezza. Continuò a scuotere felice la testa, mentre Pilar seguitava a bestemmiare e Robert Jordan capì che ora tutto si era aggiustato. Finalmente la donna smise di bestemmiare, afferrò l'orcio dell'acqua, se lo portò alle labbra, inghiottì un sorso e disse tranquilla: «E non ti impicciare più di quello che dobbiamo fare dopo, Inglese? Tu tornate nella tua repubblica e porta con te la tua roba e lasciaci decidere in pace in quale parte di questi monti vogliamo morire». «Vivere», disse il sordo. «Calmati, Pilar». «Vivere e morire», disse Pilar. «Io vedo già come va a finire». «Tu mi piaci, Inglese, ma non ti impicciare di quello che dobbiamo fare quando la tua faccenda sarà sbrigata». «Sono fatti tuoi», disse Robert Jordan. «Io non me ne impiccio». Thank you. «Vedremo», disse Pilar completamente rabbonita. «Datemi un bicchiere di quella strana roba. La rabbia mi ha completamente seccata la gola. Vedremo, vedremo quello che succederà». «Vedi, compagno», spiegò il sordo, «la cosa è difficile. Perché? Perché dobbiamo farla di mattina». Ora non parlava più il suo spagnolo puerile e fissava Robert Jordan negli occhi, calmo e ragionevole, non più sospettoso e irato, e nemmeno con la superiorità annoiata del vecchio combattente che il suo sguardo aveva espresso fino allora. «Io lo so quello che ti serve, e so che bisogna sterminare le sentinelle e sorvegliare il ponte mentre tu farai il tuo lavoro. Questo lo capisco benissimo, e non è difficile farlo prima che sorga il giorno, e anche alla luce del giorno». «Sì», disse Robert Jordan. «Vedi», disse il sordo, «il problema non è far saltare il ponte, ma andarsene dopo e uscire da questa regione di giorno è un problema serio». «Certo», disse Robert Jordan, «ci ho pensato. Anch'io dovrò scappare di giorno». «Ma tu sei solo», disse il sordo, «noi siamo in parecchi». «Si potrebbe ritornare al campo e aspettare che faccia scuro», disse Pilar, portandosi il bicchiere alle labbra e posandolo di nuovo. «Anche questo è molto pericoloso», spiegò il sordo. «Questo è forse ancora più pericoloso». «Sì, capisco», disse Robert Jordan. «Far saltare il ponte di notte non sarebbe difficile», disse il sordo. «Ma poiché tu metti la condizione che si debba farlo saltare di giorno, potranno esserci conseguenze gravi». «Lo so». «Non potresti sbrigartela di notte?» «Mi fucilerebbero». «È probabilissimo, se operi di giorno, che fucilino tutti. Per me personalmente conta poco, una volta che il ponte sarà saltato», disse Robert Jordan. «Ma capisco il tuo punto di vista. Non potresti escogitare un piano di ritirata attuabile anche di giorno?» «Certo», disse il sordo. «Lo prepareremo insieme, ma voglio solo spiegarti perché uno è preoccupato e irritato. Tu parli di andarsene nei Gredos come se si trattasse di una manovra militare. Arrivare nei Gredos sarebbe un vero miracolo». Robert Jordan non disse niente. «Stammi a sentire», disse il sordo. «Io sto parlando molto, ma lo faccio solo perché possiamo capirci bene. Noi qui siamo ancora vivi per un miracolo. Un miracolo di pigrizia e di stupidaggine da parte dei fascisti. E questi rimedieranno presto o tardi. Naturalmente siamo anche molto prudenti e cerchiamo di non dar disturbo in queste colline. Lo so. Ma dopo questa storia dovremo andarcene. Bisogna che studiamo molto bene la maniera di andarcene». «E certo». «Bene», disse il sordo. «E ora mangiamo, ho parlato molto». «Non ti avevo mai udito parlare tanto», disse Pilar. «È stato questo?» E sollevò il bicchiere. «No», disse il sordo, «non è stato il whisky, è che non avevo mai avuto tanto da parlare». «Apprezzo il tuo aiuto e la tua lealtà», disse Robert Jordan. «Mi rendo conto delle difficoltà causate dall'ora dell'esplosione». «Non ne parlare», disse il sordo. «Noi siamo qui per fare quello che possiamo, ma è molto complicato». «Sulla carta è molto semplice», disse Robert Jordan, sorridendo. «Sulla carta il ponte salta nell'istante in cui comincia l'attacco, perché niente possa più essere trasportato sulla strada. Semplicissimo». «Potessimo fare anche noi il nostro lavoro sulla carta», disse il sordo. «Potessimo anche noi ideare i nostri piani ed eseguirli sulla carta». «La carta non fa sangue», citò Robert Jordan. «Ma è molto utile», disse Pilar. «È molto utile. Quello che mi piacerebbe sarebbe di far uso dei tuoi ordini per quel tale scopo». «Piacerebbe anche a me», disse Robert Jordan. «Ma così Non si vincono le guerre. Andresti nella Repubblica, disse il sordo, che aveva voltato verso Pilar l'orecchio buono. Ya iras, mujer, quando avremo vinto questa guerra, sarà dappertutto Repubblica. Bene, disse Pilar. Ora, in nome di Dio, mangiamo. Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.